Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sono 17:12, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, per quello che riguarda i temi, ci occuperemo da un lato della lista famosa che sta emergendo, ma non è la lista chiesta da Patuelli, oggi ospite a Mix 24, qui Radio 24, il presidente dell'ABI. È semplicemente una lista di debitori che già si può ottenere, il Sole 24 Ore ne ha una parte, debitori chiaramente del Monte dei Paschi di Siena, e domani uscirà, se ho ben capito, una seconda parte della lista. Ancora, parleremo di banche quindi, ma anche parleremo di Trump. Perché? Perché sta iniziando, dovrebbe essere iniziata o inizierà a momenti, adesso vedo le agenzie, ancora non c'è nessun flash, la conferenza stampa di Trump dopo l'ultimo saluto ieri di Barack Obama, temi anche di carattere economici. Chiaramente Donald Trump lo tiene nella Trump Tower, conferenza stampa a una settimana dall'insediamento ufficiale, che noi trasmetteremo in diretta. Faccio notare che nessun presidente statunitense eletto ha mai aspettato così tanto a presentarsi formalmente alla stampa. Poi sappiamo che Trump ha fatto anche del suo atteggiamento così poco ortodosso un cavallo di battaglia. Per adesso ha parlato con comunicati improvvisati, con tweet, penso al caso cinese o all'ultimo su Meryl Streep. Comunque, detto questo, parleremo della parte chiaramente economica e dazi, non dazi, libero scambio o non libero scambio. Parleremo anche invece, per quello che riguarda i casi di casa nostra, della vicenda Mediaset, che torna sugli scudi oggi, più 6,80%, in questo momento è il miglior titolo tra quelle maggiori capitalizzazioni, dopo le indiscrezioni dell'agenzia di stampa Bloomberg, che ipotizzano che Vivendi stia trattando con Fininvest uno scambio societario, e quindi una quota di Vivendi alla famiglia Berlusconi, e per arrivare a una pacificazione dopo la scalata ostile di Bolloré, che è arrivato quasi al 30% di Mediaset, diventando non solo secondo azionista ma avendo quella che si chiama minoranza di blocco dentro Mediaset. Poco fa Vivendi ha detto che non commentiamo mai le voci, i rumors, una nota della società, però la borsa evidentemente ci crede se il titolo ha ripreso a correre. Mediaset al 6,80% in questo momento. Molto forte anche Banca Mediolanum, anche qui più 4,76%, si lega diciamo all'elemento, ma soprattutto Mediolanum cresce perché i dati record nella raccolta di dicembre spingono il titolo. Buoni risultati anche per Azimut, non a caso Azimut è il quarto miglior titolo, più 3,70%. Moncler è il terzo miglior titolo, più 3,80, ricordati 3,31, Fiat Chrysler continua la corsa, più 2,66, Telecom più 2,5, Luxottica più 2,5, Buzzi Unici in più 2,30, A2A più 2%. Il fronte opposto invece, Popolare di Milano meno 2,20, Banco BPM, come si chiama adesso, perché è il Banco Popolare e la Popolare di Milano, Banco BPM meno 2,20, Biperbanca meno 2, Unicredit meno 2%. Anche della decisione della Consulta parleremo, che ha dichiarato inammissibile il referendum sull'articolo 18, e quindi il referendum proposto da CGIL, che puntava ad abrogare le modifiche apportate dal Jobs Act allo Statuto dei lavoratori e quindi reintrodurre i limiti per i licenziamenti senza giusta causa. Il referendum si svolgerà su altri due quesiti in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Il quesito è sui voucher, chiede l'abrogazione del decreto legislativo del 15 giugno 2015, che prevede un'ampia applicazione dei buoni da lavoro da 10 euro lordi. Inizialmente erano introdotti per il solo settore agrario e poi estesi a altri settori produttivi. Il governo ha già reso noto di voler intervenire. Se lo farà con una nuova norma, cosa probabilissima, cadrà il quesito referendario. E poi il quesito sugli appalti, che interviene sulla legge Biagi del 2003, che aveva cancellato la responsabilità solidale della prima società appaltante nei confronti di quelle subappaltatrici. L'abrogazione delle norme che limitano la responsabilità solidale degli appalti, nelle intenzioni dei promotori, quindi della CGIL, punta a difendere i diritti dei lavoratori occupati negli appalti e subappalti coinvolti in processi di esternalizzazione. Detto questo, che sui voucher si deve intervenire, l'abbiamo detto molte volte, c'è stato un abuso totale in alcuni casi di uno strumento che invece è uno strumento più che legittimo, perché va a sanare forme di collaborazione temporanea che fa emergere spesso dal nero forme di collaborazione già esistenti, e non può essere utilizzato per mascherare rapporti continuativi di carattere professionale. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Visto che parliamo di borsa, diamo anche il valore di euro sul dollaro a 1,04, appunto l'euro sul dollaro, e cito anche Unicredit -1,90%, Italgas -1,30%. Rapidamente le notizie in breve. Allora, partendo dall'Europa, oggi giunge voce, allora non è ancora una certezza, però il governo britannico starebbe valutando, tra le misure da introdurre dopo la Brexit, una tassa da 1.000 sterline l'anno, circa 1.200 euro, da imporre alle aziende britanniche per ogni lavoratore specializzato di un paese dell'Unione Europea che viene assunto. Lo ha detto il sottosegretario all'immigrazione Robert Godwill, intervenendo alla Camera dei Lord, ha detto che questa è una misura per dare una priorità ai cittadini britannici. La tassa era già prevista ed è già prevista per le assunzioni di lavoratori extra Unione Europea e dovrebbe entrare in vigore ad aprile. E uno può pensarla come vuole. Personalmente ritengo che un lavoratore, la differenza non la faccia, 1.200 euro all'anno di tassa, mi sembra una mossa molto politica e soprattutto una mossa che non va certo a distendere il clima con Bruxelles, visto che poi la Gran Bretagna vorrebbe poter mantenere uno status privilegiato sulle transazioni finanziarie. Però più volte Bruxelles, a mio avviso correttamente, ha detto: o la libertà vale anche per le persone fisiche, o vi scordate di poter avere qualche agevolazione dal punto di vista della posizione finanziaria, perché la Gran Bretagna teme molto la fuga verso Francoforte, Parigi e forse anche Milano di grandi istituzioni finanziarie, ma anche del quartiere generale di molte multinazionali, perché se tu non sei, se Londra non è più nell'Unione Europea, tu di fatto non puoi più lavorare nell'Unione Europea, lavori da extra comunitario e quindi ti serve una sede anche nell'Unione Europea. Veniamo all'Italia, il Tesoro ha fatto un pieno nell'asta di bot 7 miliardi, il tasso di nuovo calato al minimo storico, il rendimento è calato allo meno 0,25% da meno 0,19%, bot annuali chiaramente, quindi per prestare soldi all'Italia e quindi per finanziare il debito italiano gli investitori accettano di perdere anche in conto, diciamo, a livello nominale lo 0,25%, 7 miliardi collocati, domanda per 11 miliardi. Vedo già molti messaggi su voucher e articolo 18, faccio notare che la CGIL ha detto che bene la consulta sui voucher, sull'articolo 18 si è limitato a dire che prende atto della decisione della Corte Costituzionale, e la Camusso poi ha ribadito che il voucher è uno strumento malato e bisognerebbe avere il coraggio di azzerarlo. Da quello che si capisce, poi vi sarà il 23 gennaio una mozione di Sinistra Italiana sul referendum, si chiede l'impegno del governo ad accogliere le richieste sui quesiti. Il ministro Lorenzin ha detto non vi saranno effetti sul governo dalla decisione della consulta sul referendum, e su questa decisione si concentrano i 100 secondi di Radio 24, lo Sole 24 Ore, oggi, come sempre trasmessi anche su RDS, oggi a firma del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Referendum sulla legittimità del nuovo articolo 18 dello Statuto dei lavoratori non si farà. La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito proposto dalla CGIL, quesito che puntava a reintrodurre, in caso di licenziamento illegittimo, l'obbligo di reintegrare il lavoro al suo posto di lavoro invece che corrispondere un'indennità come prevede ora il Jobs Act. Di segno opposto invece la valutazione della Consulta sugli altri due quesiti referendari, quello sull'abolizione dei voucher per i piccoli lavori e quello sulla reintroduzione di una forma ampia di responsabilità in solido negli appalti. Non conosciamo ancora le motivazioni che stanno alla base delle decisioni della Corte, decisioni che in realtà rispecchiano le previsioni della vigilia, anche se in effetti negli ultimissimi giorni qualche incertezza era sorta in modo specifico proprio sul più delicato dei quesiti, anche sotto il profilo politico, ovvero quello sul ritorno al vecchio regime dei licenziamenti. Ora si apre una fase in cui si dovrà capire se le modifiche normative che il governo vorrà proporre, in particolare proprio quelle sui buoni lavoro per evitare gli abusi che sembra nascondere il boom nell'uso di questo strumento, saranno sufficienti per evitare di andare alle urne, cose che altrimenti potrebbe avvenire in primavera inoltrata. Ricordiamo che ogni nuova norma per evitare il voto dovrà però passare al vaglio dell'Ufficio Centrale per il Referendum della Cassazione, che dovrà verificare se sia aderente all'istanza del quesito referendario. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, partiamo con le banche e intanto ascoltiamo che cosa ha detto oggi il presidente dell'ABI a Giovanni Minoli a Mix 24 su Radio 24. Partiamo dalla proposta di rendere pubblica la lista dei grandi debitori insolventi del Monte dei Paschi. Patuelli ha anche ricordato che questo deve essere uno degli obiettivi della commissione d'inchiesta che il Parlamento ha detto di voler istituire. Ieri il Parlamento ha approvato le mozioni, una in particolare, per l'istituzione di una commissione d'inchiesta. E quindi c'è speranza, diciamo? Non c'è esplicitamente inserito come uno degli obiettivi su cui il Parlamento ha deciso, appunto, rendere noto le responsabilità di tutti che sono stati elencati, gli amministratori delle banche che sono ben noti, e anche coloro che sono stati debitori insolventi. Ecco, quindi il Parlamento ieri l'ha approvata. Quindi la sua proposta è passata, diciamo, perché sostanzialmente è lei che ha gettato, diciamo, il sasso nello stagno, no, con successo. Per dire la verità, io ho studiato solo la metodologia giuridica e ho espresso che non avevo obiezioni, ma da mesi consumatori, sindacati, esponenti politici, a cominciare dal presidente della regione Toscana, l'avevano chiesta. Vabbè, comunque lei ha fatto la cassa di risonanza potente. I nomi certi da fare quindi sono quelli di chi, per riassumere con chiarezza? La parola insolventi è giuridicamente chiara. E adesso vi arriviamo anche con il nostro Fabio Pavesi, che oggi pubblica la prima lista di, attenzione, non è quella della commissione. Buonasera Fabio, innanzitutto. Buonasera. Da dove l'abbiamo ricavata questa lista? Perché non è quella che chiede Patuelli, c'è comunque modo di sapere chi erano i debitori del Monte dei Paschi? Beh, noi abbiamo usato il modo classico, siamo andati a prendere ovviamente i bilanci della banca, abbiamo isolato le partecipazioni che la banca ha in società industriali. Una banca, quando prende una partecipazione azionaria, è perché in genere converte il credito in azioni. Cioè c'è un debitore che non riesce a pagare, la e a banca quel punto tu entri nella sua società. Entra nel capitale, e siamo andati a vedere tra quelle su cui la banca ha delle partecipazioni, quelle che hanno delle perdite e quindi probabilmente hanno un credito non pagato e quelle che hanno dei grossi pegni. Facendo questo lavoro certosino di analisi, non esaustivo ovviamente, abbiamo tirato fuori i primi nomi. Ecco, voglio dire che in questo caso però non vengono fuori i nomi di soggetti fisici. Nel senso che se io fossi Sebastiano Barisoni, non come titolare della Barisoni S.P.A., ma solo come persona fisica, che grazie a un insieme di rapporti assolutamente che nulla c'entrano col merito di credito, ma avessi ottenuto delle grandi linee di finanziamento, quello non emergerebbe da quello che volete. Sì, vero, però quando uno chiede un grosso finanziamento in genere lo fa come persona giuridica, cioè è difficile che troveremo nella lista che verrà poi pubblicata grandi quantità, perché noi abbiamo isolato i grandi debitori, che ovviamente, dato che tutti sanno, l'abbiamo anche pubblicato, che il 70% delle sofferenze di MPS, ma in generale delle banche italiane, vengono dai grandi gruppi, finanziamenti oltre i 5 milioni di euro, difficilmente una persona fisica ottiene un finanziamento di tale entità. Quindi questa lista dovrebbe essere molto vicina a quella che verrà poi pubblicata. Perché tu dici tanto di Sebastiano Barisoni come soggetto fisico, fa fatica a prendere 10 milioni, che dovrebbe dare garanzie per 10 milioni Sebastiano Barisoni. Se è la società degli asset da mettere a garanzia, pensiamo che se uno, non so, il caso De Benedetti, ovviamente De Benedetti con Sorgenia aveva 1,8 miliardi di finanziamenti perché sotto era delle centrali elettriche da mettere a garanzia, poi si è visto che non è bastato, insomma. No, quella di Sorgenia è una vicenda che abbiamo raccontato più volte. Sì, è la più spinosa. Beh, anche una vicenda oggettivamente poco spiegabile agli artigiani, ai commercianti, ai piccoli imprenditori che hanno difficoltà a ottenere sempre comunque linee di credito, come fanno le banche esposte per 1 miliardo. La associamo, ma non perché siano due cose simili, ma la associamo a altri casi di finanziamenti inspiegabili. Penso a San Raffaele, con tutti i distinguo del caso, lo dico, al San Raffaele, penso alla famosa vicenda di Ligresti e quindi della fondiaria SAI, cioè quando ci occupiamo di come è possibile che alcuni ricevono finanziamenti incredibili e altri invece, altri venga chiesto il pignoramento della casa. Non c'è solo Sorgenia, adesso no, vi arriviamo, certo. Vorrei però far ascoltare ancora Patuelli, da un lato sulla vigilanza e sul ruolo della vigilanza, lì il riferimento Banca d'Italia e Consob. Le banche non dovrebbero controllare chi merita credito e chi no? Sicuro, con gli elementi che sono a disposizione, di cui quelli forniti dai clienti sono elementi fondamentali. Ma non unici però. Non unici, ma non è che ce ne siano molti, non è che ci sono dei soggetti indipendenti che possono sapere l'andamento delle singole aziende. Ma senta, rispetto alla responsabilità sulla vigilanza, che evidentemente non c'è stata, è necessario intervenire? Cioè, per essere semplici e chiari, dovremmo fare anche i nomi di chi non ha vigilato. Guardi, io non ho, come privato cittadino e presidente di un'associazione privata, alcun flusso di notizie relative. No, ma in termini generali, diciamo. In termini generali potrei dire anche in termini ammiragli, per intenderci. Non, il problema che noi questi flussi non li abbiamo. Vabbè, ma chi doveva vigilare c'è. E quindi, Non è che il vigilante può prevenire l'incidente stradale, per essere precisi. Accerterà le cause e le responsabilità dell'incidente. Ma una volta che c'è l'incidente ed è chiaro, forse... Sì, ma a me risulta che ci siano degli esposti proprio della vigilanza che stanno... che vengono esaminati dalle autorità giudiziarie. Allora, la lista, andiamo sul metro della pubblicità e poi diciamo la lista. Parlavamo di Sorgenia, quindi famiglia De Benedetti, oggi sul Sole anche Luigi Zunino, quindi gruppo risanamento. Vado avanti così, poi ci spieghi le varie posizioni. La CISFI di Gianni Punzo, azionista di NTV, quindi Italo, e ideatore dell'Interporto di Nola. La BTP, General Contractor dell'azienda Bartolomei Fusi, sponsorizzata da Denis Verdini. Giuseppe Statuto, immobiliarista, acquisto pignorato l'Hotel Danieli, e la famiglia Mezza Roma, e poi anche Antonio Muto. Ora, quella di Antonio Muto la cito solo come caso classico. Stiamo parlando di chi non ha ricevuto un prestito dal Monte dei Paschi, una linea di credito come si chiama, ma di chi non è riuscito a ripagarla. Lo dico subito, visto che mi scrivete di Marcegaglia. Marcegaglia ha ripagato, non è che... Il problema è chi ha ricevuto una linea di credito e non è stato in grado di ripagarla. Faccio un esempio di Antonio Muto, è un costruttore calabrese, dico solo perché è di Rigno Calabrese, prima che mi facciate notare so benissimo che anche Mussari è calabrese di origine, adesso non è che andiamo sulla definizione regionale e basta, però è un costruttore calabrese, il Monte dei Paschi lo ha finanziato con 27 milioni di euro, la società è fallita nel 2015 e di 14 milioni non si sa più nulla. Allora, è interessante finanziare di 27 milioni di euro una società che poi fallisce, non si sa più nulla. Che cosa hanno pignorato di questo? Se non c'è più nulla fanno fatica. Possono pignorare le azioni, è l'unica cosa che possono fare. Ad esempio Mezza Roma, costruttore romano, chiesto il concordato, ha patrimonio netto negativo per 33 milioni, quindi non c'è più il capitale, ha debiti con le banche per 240, quindi la Mezza Roma è di proprietà oggi delle banche, MPS in testa, che dal 2013 ha l'intero capitale sociale in impegno pignoratizio, cioè è tre anni che i costruttori di Mezza Roma sono in realtà di proprietà di MPS. Ovviamente quei 290 milioni che devono restituire con 33 di patrimonio netto negativo, faccio fatica a pensare vengano mai restituiti. E il problema è perché gli dati. E il tema è che probabilmente, allora faccio una battuta, quando tu hai un debito piccolo con una banca il problema è tuo, quando tu hai un debito grande con una banca il problema diventa la banca. Allora qual è il tema? Che tu finanzi un soggetto, il soggetto ha una crisi, fa fatica a ripagarti, o tu chiedi il fallimento subito perdendo tutto il credito, o gli dai nuovi quattrini per, sperando che torni a andare in pista. Fatto sta che il debito aumenta sempre più, e il soggetto probabilmente non esce dalla crisi, quindi la banca di fatto si trova a aumentare esponenzialmente quel debito e poi è costretta a pignorare tutto quello che è pignorabile. Se nel frattempo poi i soldi sono in qualche modo scappati altrove, poi alla banca non rimane più niente. Allora, il caso dei Benedetti è eclatante per un motivo molto semplice. Allora, Sorgenia riceve dalle banche, sono circa 20 istituti, 1,8 miliardi. MPS contribuisce da sola per 600 milioni. Già questa è un'anomalia, non si capisce perché su 20 istituti MPS deve concedere un terzo del debito bancario. Quindi una sorta di concentrazione di rischio. E va bene. Cosa succede? Che a un certo punto Sorgenia va in crisi, le banche aumentano il debito, a questo punto le banche dicono alla famiglia: voi dovete ricapitalizzare, cioè io vi do nuovi soldi ma voi dovete immettere capitale. De Benedetti, un lungo braccio di ferro, alla fine i De Benedetti dicono: noi non mettiamo più un soldo. Tenetevi pure la società, noi non mettiamo un soldo. Peccato che la controllante di Sorgenia, che è la CIR, in quegli anni aveva a disposizione 800 milioni di euro di liquidità investita in corporate bond, cioè se la famiglia non ha i soldi posso capirlo, se l'imprenditore non li ha, ma in quel caso i soldi c'erano. Semplicemente De Benedetti hanno pensato: il bis va talmente male che se metto 100 milioni li perdo, allora io smetto di mettere i soldi e giro il pacco dolente al sistema bancario. Questa è la cosa, diciamo, un po' specciosa della vicenda di Sorgenia, perché in quel caso la liquidità per rifinanziare la società c'era. Non è stata usata perché i De Benedetti avevano capito che il business rischiava di tracollare. Però a questo punto hanno girato l'intera patata bollente del sistema bancario italiano. Oggi MPS possiede Sorgenia col 17% del capitale. Per rientrare da questi 100 milioni deve risanare la società, venderla a pezzi e forse tra 3, 4, 5 anni avrà indietro quei 600 milioni di euro che aveva prestato dal 2008 in poi. Questa è la vicenda. Cosa volete che commenti? Poco. Vedo... Vedo anche dei messaggi su altri nomi, ne parliamo dopo il metro pubblicità. Attenzione, stiamo parlando di debiti, che, o meglio, di crediti che diventano NPL e quindi non performing loans. Non stiamo parlando dei mutui, lo dico perché tanto so che mi state scrivendo, e parleremo anche di Boccia dopo il... Dopo il che Boccia, visto che oggi sto ospite Francesco Boccia, no, mi riferisco a Boccia, presidente di Confindustria, la posizione è molto chiara, non è un NPL. Comunque lo chiariamo dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Oh, grazie per la base, che è quella che mi serviva, perché in tema di libertà nell'informazione, indipendenza dell'informazione, non prendo lezioni da nessuno, lo dico anche ad alcuni colleghi sempre pronti con la bacchetta in mano di altri quotidiani, poi quando capita loro iniziano il distinguo. Allora, la posizione del presidente Confindustria Vincenzo Boccia, si tratta di una cambiale finanziaria, qui stiamo parlando degli NPL, cioè di soggetti che hanno ricevuto credito dalla banca e non hanno ripagato, tant'è che la banca in moltissimi casi è dovuta entrare nel capitale, come stiamo raccontando. Che cos'è invece una cambiale finanziaria e perché non è un non performing loan? Allora, la cambiale finanziaria è una sorta di bond. Allora, le arti grafiche Boccia, che sono l'azienda del presidente di Confindustria Boccia, editore di questo giornale, lo dico perché ho guardato la posizione di Boccia, è indebitato come altri. È successo che ha avuto una crisi di liquidità e anziché chiedere i soldi alle banche su cui è esposto, ma sta pagando, ha emesso un bond, perché la cambiale finanziaria è una sorta di bond che verrà sottoscritto da investitori istituzionali sull'extra mota di Borsa Italiana, volete verificare, arti grafiche Boccia, lo potete vedere, il valore è 1 milione, serve a tamponare le esigenze di cassa di questo anno di attività, paga un tasso di interesse sopra il 5%, quindi un tasso alto, perché c'è una crisi di liquidità in questo momento, ma non ha chiesto soldi alle banche, si è fatto un bond, quindi si finanzia sul mercato. Questa è la posizione di arti grafiche Boccia, per quanto ho potuto constatare guardando appunto questa cambiale finanziaria. È giusto eliminare ogni dubbio, dopodiché adesso andiamo avanti, perché ripeto, la posizione è chiara, la cambiale finanziaria, tra l'altro, vuol dire chiedere, come fanno le società private quando emettono un'obbligazione, chiedono soldi al mercato. Vogliamo contestare anche le obbligazioni? Altra cosa è chi ha ricevuto i soldi, e nemmeno questa è una cosa illegale o sbagliata o da criticare, perché le banche dovrebbero erogare soldi sul territorio, anche di più chiediamo noi alle imprese che hanno piani e non solo per finanziare la cassa e quant'altro, però quando tu ti rendi conto che in alcuni casi poi la banca Monte dei Paschi è dovuta entrare nel capitale perché tanto questi non pagavano, il sospetto ti viene. Allora, al di là della famiglia De Benedetti e Sorgenia, Zunino, sì, che ha debiti complessivi con il sistema bancario per 3 miliardi di euro, gruppo risanamento, il titolo di risanamento svalutati per 11 milioni di euro, e poi la statuto finanziato con 160 milioni dopo diverse rate non pagate, è stato pignorato dell'hotel Danieli di Venezia. Mezza Roma mi chiedono se è quella del Calcio Siena, sì. È il Calcio Siena che è fallito, il 100% del capitale del Calcio Siena, guarda caso, oggi di MPS. Quindi Mezzaroma era finanziato sia come impresa di costruzioni della famiglia, sia come Siena Calcio. Quindi doppia beffa per la banca in questo caso. E Antonio Muto mi scrive, un'ascoltatrice che sta comprando tramite prestanome immobili in mezza Mantova. Allora, prima c'è mezza Roma, adesso c'è mezza Mantova, non lo so, non ho elementi, voglio dire, lo giro a Fabio Pavesi, che è un bel segugio, e andiamo a verificare se Muto nel frattempo con 14 milioni spariti, società fallita, non si stia comprando appartamenti a Mantova. Però non è che adesso possiamo fare così la bocca, diciamo, della Repubblica Serenissima per le delazioni. Andiamo avanti con gli altri diciamo, sì, crediti concessi a persone che non hanno ripagato nulla, sono diventati non solventi, la banca è dovuta entrare nel capitale. Prego. Beh, un nome, abbiamo fatto nomi, come dire, di politica di centro-sinistra, diciamola così, c'è anche il centro-destra, cioè voi ricordate lo scandalo dell'Aquila, le grandi opere, la BTP, quelli che ridevano, la Baldassini Tognazzi, la società di il General Contratto, una società enorme con miliardi di fatturato, era della famiglia Bartolomeo Fusi. Ecco, è andata in sofferenza questa. Fusi ha ricostituito una nuova società chiamandola Fenice Holding, la rinascita dalle ceneri. Anche Fenice Holding non ha viaggiato granché bene. Ebbene, anche lì MPS di fatto è azionista oggi di Fenice Holding, società in perdita, e presumo che quei crediti dati ai tempi alla BTP siano ancora crediti in sofferenza. Quindi c'è la famiglia Fusi con tutto quello che comporta, i grandi immobiliaristi, statuto, ma c'è anche l'Igresti. Allora, l'MPS comprò da Ligresti l'area di Casal Boccone a Roma. Nel 2007 la comprò da Ligresti. Di fatto uno si chiede perché una banca si compra un progetto immobiliare, perché Ligresti aveva delle sofferenze già allora con MPS. Casal Boccone è in liquidazione e il principale azionista è MPS col 22% del capitale. Casal Boccone non ha mai prodotto un euro di utile, ha prodotto perdite, e immagino che il credito a Casal Boccone non sia mai rientrato nelle casse della banca. Quindi abbiamo i grandi immobiliaristi, statuto si compra l'hotel Danieli non con i soldi suoi, finanziandosi dalle banche. Le banche dicono mettiamo pegno su l'hotel, in fondo ha un valore. Però poi il signor Statuto non paga le rate. Allora io mi chiedo, uno che si compra Hotel Danieli per 150 milioni e poi non paga le rate, pensate al mutuatario, no? No, ma io personalmente bello che uno potrebbe anche dire, io vado, mi compro Hotel Danieli e mi faccio finanziare dalla banca, ci vado a dormire, poi non pago le rate e poi tu ti pigli Hotel capisci Danieli. Capisci che se uno fa quel passo lì, si presume che abbia liquidità sufficiente per... Uno si fa finanziare al 100% dalle banche, si compra l'Hotel Danieli, le banche mettono il pegno, l'ipoteca sull'albergo, però questo a un certo punto smette di pagare le rate inspiegabilmente. Allora, se lo fa un piccolo mutuatario, la banca subito si fa rivalere. Nel caso di Statuto hanno dovuto chiedere prima il pignoramento, dopodiché il signor Statuto si è svegliato dicendo «Ops, non ho pagato le rate». Questo è il clima in cui vivono. Sì, certi... io penso anche, però scusami adesso, perché io non credo alle demi-vierge, cioè alle mezze vergini, o come dicono in francese, che la verginità non sia un problema di centimetri. Ascolta un attimo, Fabio. Se io vado in banca e chiedo, voglio comprarmi quella palazzina lì, ma quanto costa? 10 milioni di euro. Vanno a vedere il mio reddito, vedono che cosa ho di più, dicono, no, guardi, Bresoni, lei non è meritevole di credito, perché non si avvicina neanche lontanamente a, diciamo, con i beni che ha suoi, della sua famiglia, della sua, al livello che lei chiede. Ah, come è possibile che tu dia Statuto 160 milioni? Perché questo è il problema. Perché gli hai dati prima, cioè c'è il capitalismo in relazione in questo paese. Ecco. Statuto è un immobiliarista che cavalca la scena da almeno 20 anni, ha altre proprietà in giro per il paese, avrà controgarantito avendo altri hotel, dicendo datemi i soldi, metto a pegno non solo il Danieli, metto a pegno anche l'Hotel Principe di Gales di Milano, adesso il Four Seasons, il gruppo Statuto. Capite che, allora, ripeto, la battuta è, quando uno ha un grande debito il problema diventa la banca, quando uno ha un piccolo debito il problema è suo. Allora, è ovvio, quando tu ti esponi molto con un soggetto, poi il coltello da parte del manico in qualche modo passa al soggetto, non alla banca, che subisce. Allora, il tema è, ma i banchieri dove stavano? Perché l'altro tema che qualcuno ha sollevato è non basta l'elenco degli insolventi, andrebbe visto. No, ma infatti no, io sono d'accordo. Chi erano a capo dei crediti delle banche? Chiudiamo su questo, perché io vorrei anche la lista di chi ha firmato gli affidamenti. Direi di sì. Scusami, cioè, non è mica possibile. Adesso Mussari è il capo supremo. Baldassari è indagato anche lui per l'operazione sui derivati. Però qualcuno dentro il Monte dei Paschi li firmava sti affidamenti, certo, o la colpa è del funzionario, no? Allora, a qualcuno, se tu hai 160 milioni da dare, ma santo Dio, una cosa del genere la devi far firmare, no? Il meccanismo è che se tu vai a chiedere il mutuo è il direttore di filiale che inoltre la pratica. Quando chiedi 5 milioni va al comitato crediti della banca, esatto, dove ci sono i massimi funzionari della banca. Quando chiedi 10 milioni va al consiglio di amministrazione della banca, e quindi il presidente, la D, tutti i direttori centrali e i consiglieri indipendenti siedono lì e sono loro che mettono la firma sui grandi prestiti. Quindi bisognerebbe chiedersi dove erano questi banchieri quando probabilmente molti immobiliaristi dicevano, ho un progetto immobiliare, metto capitale 10, la banca mi mette 90, siete d'accordo? E la banca diceva sì, e forse ha sbagliato in quel caso. No, ha sicuramente sbagliato, visto che ce la dobbiamo comprare noi alla fine della fiera e dare quasi almeno 8 miliardi, se vedremo quanti saranno i soldi effettivi dell'aumento di capitale. Grazie intanto a Fabio Pavesi, traffico e poi Trump. Focus Economia. We've had some great news over the last couple of weeks. I've been quite active, I guess you could say, in an economic way for the country. A lot of car companies are going to be moving in. We have other companies. Big news is going to be announced over the next couple of weeks about companies that are going to be building in the Midwest. You saw yesterday Fiat, Chrysler, big, big factory going to be built in this country. Ford just announced that they stopped plans for. E questo è Donald Trump che ha iniziato il suo primo incontro con la stampa citando proprio la Fiat Chrysler. L'avete appena sentito, dice: abbiamo avuto grandi notizie nelle ultime due settimane, sono stato molto attivo sul fronte economico, molte case costruttrici di automobili hanno spostato la produzione qui, e chiaramente rivendica già i risultati della sua campagna contro la produzione di auto in Messico. Fiat Chrysler costruirà un grosso impianto nel paese. Io faccio notare per precisione che Fiat questa cosa aveva già decisa nel 2015, però insomma apprezzamento per Fiat Chrysler da parte di Trump, lo prendiamo. Ford viene citato, ho apprezzato la mossa di Ford, ho molto apprezzato Fiat Chrysler, spero che General Motors seguirà. Sappiamo che GM invece ha una posizione diversa, ha detto che lei non cambia i suoi piani. Mario Platero. Mario, eccoci Sebastiano. Allora, Sebastiano, devo dire Sì, devo dire che è stata una conferenza stampa molto interessante e Trump è emerso più presidenziale, tra virgolette, di quello che molti si aspettavano. Ha affrontato tematiche molto diverse, innanzitutto economiche. Sì. Però, come sai, c'era quell'imbarazzo di questo rapporto presunto. Di 007. Esatto, che sembrava attribuire a certi individui, di nuovo legati alla Russia, il possesso di materiale imbarazzante per Trump. Ecco, la cosa è stata poi di fatto smentita da una serie di circostanze contenute in questo documento che poi si sono rivelate false, e Trump, inusuale, ne ha approfittato per elogiare quella stampa, incluso il New York Times, che aveva deciso di non pubblicare questa documentazione. Però per attaccare gli 007, che lo scontro con la CIA resta per tutto. Per attaccare non solo gli 007, ma anche la CNN e anche BuzzFeed, che sono, diciamo, da una parte la rete televisiva, dall'altra un sito internet importante, che invece hanno deciso, contrariamente agli altri media, di pubblicare queste, diciamo così, questi rapporti, queste notizie che non erano circostanziate. Quindi è stata una dinamica, devo dire, piuttosto interessante nel suo insieme. Ma l'altra cosa importante è che Trump ha comunicato ufficialmente oggi per la prima volta di aver costituito un trust per evitare qualunque rischio di conflitti di interesse. Ha detto: io non ero tenuto a farlo, eppure ho deciso di farlo lo stesso. E poi ha raccontato, devo dire, Trump è fantastico perché è poco presidenziale, poco ufficiale, ma è rinfrescante, se vuoi. Ha raccontato di aver visto ieri un investitore del Dubai che gli aveva proposto un investimento da 2 miliardi di dollari. Se io ti do 2 miliardi di dollari se tu fai una cosa in Dubai. E dice lui, un vecchio amico, ha dato anche il nome di questo investitore, dice però gli ho dovuto dire di no. Ha annunciato che bloccherà una trentina di investimenti in corso, che l'intera struttura dell'intera organizzazione Trump sarà affidata alla gestione dei figli, che una serie di sue partecipazioni personali anche in azioni saranno liquidate di modo che possa avere delle posizioni liquide. Insomma, ha fatto cose che lui stesso ha sottolineato non era necessariamente tenuto a fare. Ecco, nell'insieme direi la conferenza stampa è andata piuttosto bene. Trump, quando dico è stato presidenziale, voglio dire che non si è messo a litigare con i giornalisti, non ha alzato il tono di voce, ha risposto molto a tono, per cui direi che questo primo incontro sicuramente è andato bene. C'è la questione economica a cui tu hai accennato, ha promesso più posti di lavoro che siano mai stati creati nella storia americana, e ha aggiunto un altro settore, un nuovo settore, oltre a quello della difesa. Ha riparlato dell'F-35 e ha riparlato ovviamente, come dicevi tu, dell'auto, ma ha aggiunto il settore dei farmaceutici. Ha detto: è inaccettabile che le aziende farmaceutiche americane abbiano fatto quello che hanno fatto, trasferire per esempio quartieri generali all'estero, e dunque anche su quello interverrò. Dunque un Trump alquanto catenato, e devo dire con e che sta mantenendo, al di là del fatto che abbia messo nel ruolo di chiave dell'economia, della finanza, della Casa Bianca, finanzieri che vengono dalle banche d'affari americane, però sta mantenendo, va detto, la linea con cui ha fatto la campagna elettorale, cioè voglio riportare le aziende dentro gli Stati Uniti. Poi lo scontro con GM, con Toyota c'è stato. Però insomma, che sta mantenendo tutti i temi a lui cari, devo dire, da questo punto di vista la coerenza c'è tutta. Poi uno può piacere, può non piacere, sappiamo che c'è molta avversione in alcune fasce della popolazione americana, ma insomma sta mantenendo tutti l'approccio che aveva sempre promesso in campagna elettorale. È partito dal settore auto perché è quello in cui da sempre storicamente insomma, i sindacati sono più forti, l'immaginario collettivo americano è più forte, insomma, la cosiddetta, tra l'altro, la cintura della ruggine, dove ha sede la maggior parte dell'industria automobilistica americana, ha votato pro Trump, cioè ha girato le spalle per la prima volta nella storia ai democratici. Grazie, Rubber Belt, per essere precisi. Grazie a Mario Platero in collegamento con noi da New York. Andiamo su GR24, poi la borsa con il caso Mediaset. Da un lato, e oltre che il caso Mediaset che ha chiuso sui massimi della giornata, la consulta sui quesiti referendari 349-238-6666 per sms e whatsapp. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Focus Economia. 18:07, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Sì, è la Rust Belt, non ho sbagliato io, tra gomma e ruggine, chiedo venia. La Rust Belt, la cintura della ruggine, quella dove si concentra la maggior parte dell'industria automobilistica americana, Detroit, ma non solo, e che ha voltato le spalle ai democratici, a Hillary Clinton nelle ultime elezioni americane. Non a caso, si diceva prima con Mario Platero, nell'intervento di poco fa di Donald Trump, l'intervento stesso è iniziato proprio con, ringraziando alcune industrie automobilistiche, in primo luogo Fiat Chrysler, per gli investimenti fatti e mantenuti negli Stati Uniti. Andiamo invece sulla borsa oggi, perché il caso di giornata si chiama di nuovo Mediaset, di nuovo dopo direi due settimane di tranquillità, più 5,90%, segue Banca Mediolanum più 4%, poi Moncler più 3,20%, Fiat Chrysler più 3,15%, Azimut più 3%. E allora, Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Mentre Azimut e Mediolanum si avvantaggiano, Mediolanum in primis, dei dati ottimi sulla raccolta di dicembre, no? Raccolta record più 5%, e anche Azimut ha buoni risultati, cosa è successo su Mediaset? Sì, e anche Mediaset, Telecom, per diciamo associazione. Sì, esatto. Mediaset peraltro fino a diciamo il primo pomeriggio navigava abbastanza tranquilla, poi all'improvviso si è infiammata, è arrivata a fare oltre più 7%, ha chiuso più 5,87%, perché da indiscrezioni pare che Vincent Bolloré, ricordiamo il presidente di Vivendi, stia trattando per fare un'offerta alla famiglia Berlusconi, offrirebbe probabilmente azioni Vivendi per trovare un accordo. Ovviamente tuttavia, se venisse trovato un accordo tra Fininvest e Vivendi, a quel punto scatterebbe un'OPA. Su questo ha ragionato il mercato. Peraltro l'onda lunga della speculazione che ha colpito Mediaset ha coinvolto anche la stessa Telecom Italia, visto che ricordiamo Vivendi detiene il 24% di Telecom Italia, e peraltro nelle scorse settimane l'autority delle TLC è stata chiara: un gruppo non può tenere al tempo stesso una partecipazione rilevante in Telecom e Mediaset. Dunque il mercato già inizia a ipotizzare che se Vivendi effettivamente si concentrerà sulla società di broadcasting, cederà la partecipazione in Telecom, e chissà che non sia già in trattativa con qualche gruppo, già si ragiona sulla possibilità ad esempio di Orange, che visto che l'amministratore delegato Stéphane negli anni scorsi e nei mesi scorsi aveva più volte manifestato l'interesse per la compagnia italiana. Così anche Telecom sul finale è salita del 2,17%. Ancora, oltre appunto a Mediolanum, Azimut, Telecom e Mediaset, dicevamo Fiat Chrysler di nuovo forte, e poi abbiamo visto anche altri titoli crescere moltissimo, penso a Tod's, che alla fine ha chiuso con un più 7%. Sì, in questo caso va detto che innanzitutto è da ieri che va bene tutto il settore del lusso. Venerdì inizieranno le sfilate milanesi, e in genere a margine delle sfilate si raccolgono sempre delle indicazioni su come sono andate le vendite, ad esempio nell'ultimo periodo del 2016, ovviamente molto importante per valutare le case di moda. Detto questo, inoltre gli analisti sono alle prese a ricalcolare anche l'impatto positivo che avrà su tutte le case di moda il cosiddetto patent box. Si tratta di agevolazioni fiscali che sono state introdotte con la legge di stabilità del 2015, per ora ufficialmente ha chiesto l'adesione soltanto Ferragamo, che infatti era andata molto bene ieri, oggi ha fatto solo più 0,16%, ma comunque avrà un impatto positivo sugli utili di tutte le aziende. E poi last but not least, Tod's appunto è stata la migliore, sul finale ha fatto più 7%, ma ricordiamo che oggi era arrivata a segnare anche un progresso del 15%, perché il finanziere Andrea Bonomi è emerso che ha rilevato il 3% del capitale, ha investito circa 60 milioni nella società di moda. Allora, altri titoli, e qui andiamo su quelli negativi: Biper Banca meno 2,40, Banco BPM meno 2,20, poi cito anche Italgas meno 1,30, Terna meno 1,20%, e poi Unicredit meno 2%. Domani c'è l'assemblea per l'aumento di capitale da 13 miliardi. Sì, infatti c'è grande attesa per l'assemblea di domani, che dovrà varare l'operazione sul capitale da 13 miliardi. Intanto iniziano a circolare le prime indiscrezioni. pare che le azioni di nuova emissione potrebbero essere emesse con uno sconto rispetto agli attuali titoli di borsa del 30%. Si inizia a ragionare su questo sconto e quindi oggi i titoli ovviamente hanno pagato dazi e sono andate giù del 2%, ma oggi diciamo il settore bancario non era la giornata del settore bancario, alcuni titoli si sono un po' ripresi sul finale, ad esempio Intesa ha ridotto i danni allo 0,16%, come hai notato tu, poi sono andate male Bipere e Banco BPM che hanno perso oltre il 2%, su Banco BPM va detto che erano cresciute molto la scorsa settimana, Bipere era andata un po' meglio rispetto ad altre banche nei giorni scorsi e poi c'è attenzione su UBI perché UBI invece è andata in controtendenza, è salita dell'1%, probabilmente domani comunicheranno ufficialmente che hanno rilevato le cosiddette tre Goods Bank, cioè Banca Etruria, cioè le tre appunto Marche e Carichetti. Esatto. Allora andiamo sui migliori e peggiori della seduta, Full Six più 19%, Sintesi più 18%, TAS più 14%, WM Capital più 14%, Media Contact più 12%, fronte opposto Visibile Editore meno 9%, Energy Lab meno 8,90%, Ross meno 7,50% e ancora City Biofarm meno 5,60%. Grazie Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore. Allora andiamo sul traffico e poi parliamo dell'articolo 18 bocciato referendum dalla Corte Costituzionale, le dichiarazioni su Anna Camusso ma non solo, e invece passano quello sui voucher che è quello insomma, più contestato devo dire in questo periodo e anche più discusso, e il quesito sugli appalti che interviene invece sulla legge Biagi del 2003. Dopo il traffico, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Allora, la decisione, per chi non lo sapesse, della Corte Costituzionale appunto ha bocciato il referendum sull'articolo 18, via libera invece a voucher e responsabilità in solido appaltante, appaltatore, il quesito sugli appalti. Il referendum si svolgerà in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno sui voucher, però va detto che se il governo, che ha già reso noto di voler intervenire su questa materia, modificherà la normativa, il referendum cadrà. Sentiamo la segretaria della CGIL Susanna Camusso, quelli che hanno chiesto il referendum e quindi sono rivolti alla Consulta sui voucher, che ha definito strumento malato, bisognerebbe avere il coraggio di azzerarlo. Abbiamo sentito anche, credo nella giornata di ieri, il Ministro del Lavoro spiegare che si può fare qualche correttivo. Uno strumento malato è uno strumento malato. Bisogna avere il coraggio di azzerare una cosa che permette solo malattia e invece di dare risposte al tema vero, che è l'esistenza per fasce marginali di necessità di tutelare il lavoro occasionale. Su questo noi nella Carta dei diritti universali abbiamo fatto una proposta che continuiamo a ribadire, di cui sottolineiamo che il discrimine rispetto all'attuale normativa è che anche un voucher deve presupporre l'esistenza di un contratto di lavoro. Allora, vedo già sms, ma anche la CGIL ha fatto uso massiccio di voucher, sì, l'ha fatto su alcune forme, però insomma li ha usati. Allora, che poi li abbia usati correttamente per alcune forme di collaborazione è verissimo. Quello che ritengo da un punto di vista della coerenza un po' strano, che se lo strumento è malato non lo usi e basta, oppure riconosci che questo strumento ha una sua funzione e che è stata distorta la funzione, è stata slabrata quella che era l'impianto, quello che era l'impianto iniziale del voucher, e lì va punito, e soprattutto bisogna fare in modo che non ve ne sia un abuso. Ma insomma, delle due l'una: o lo strumento è malato e tu non lo usi mai, oppure se lo usi correttamente, perché nessuno sta accusando la CGIL di averlo usato in maniera scorretta, beh, da questo punto di vista non puoi dire che lo strumento va abolito e basta, dice la Camusso, occorre mettere un contratto sotto. Però il voucher, se vogliamo ricordarci, e giro la domanda a Claudio Tucci del Sole 24 Ore. Buonasera Claudio. Buonasera a te Sebastiano. Il voucher come impostazione iniziale, cioè un conto poi è l'abuso. Allora, se c'è un abuso si corregge la norma perché e si evitano gli abusi. Però il voucher andava a coprire, diciamola tutta, forme di collaborazione lavorativa che spesso vanno se no in lavoro nero. In realtà sì, era nato, così Biagi lo pensava, per il lavoro occasionale, essenzialmente agricoltura, servizi domestici, e riferito poi col tempo è stato limitato a studenti e pensionati. Il tema appunto dei voucher, in realtà il quesito della CGL insomma, è un po' più ampio, cioè chiede la cancellazione totale di tutta la materia, tutta la normativa attuale sul lavoro accessorio. Cioè, come dicevi appunto, tu facevi notare correttamente, no? Cioè, l'idea del lavoro accessorio, cioè sono quei piccoli lavori e lavoretti, che sono comunque, se viene meno qualsiasi tipologia di rapporto negoziale che di regola sfociano tranquillamente nel lavoro nero. Il voucher in realtà è l'altra cosa appunto che oggi mi sembra sia importante sottolineare, cioè il voucher non è stato allargato il campo d'applicazione dal Jobs Act. Cioè il Jobs Act ha semplicemente risistematizzato l'intera normativa, ha alzato solo di 2.000 euro il tetto massimo dei compensi, li ha portati a 7.000. Fu la legge Fornero nel 2012 a rendere di fatto utilizzabile questo strumento in tutti i settori economici, quindi non solo in agricoltura o nei servizi, ma in qualsiasi, fermo restando che nell'industria, nella manifattura in senso stretto, questo utilizzo è di fatto molto marginale. Sì, è più sui servizi. È sui servizi, esatto, il turismo. Perché c'è stato questo? Di settimane insomma intense di polemica politica su questo strumento, perché dal 2012 in avanti è sempre cresciuto il suo utilizzo, ma è stato mai cresciuto che cosa? Cioè le ore, i buoni lavoro arrivati a quei 113 milioni che si leggono appunto nei report mensili dell'INPS, in realtà corrispondono a circa 50.000 lavoratori full time, cioè, e allo 0,23% del costo del lavoro, cioè noi parliamo di una fetta di mercato del lavoro che è in effetti nei numeri piuttosto piccola, soprattutto sembrerebbe, ed è uno strumento utilissimo per emergere il lavoro nero, cioè l'eventuale accoglimento nelle urne di CGL potrebbe radicalmente cancellare tutta la normativa sul lavoro accessorio, cioè non ci sarebbe nessun rapporto negoziale che potrebbe disciplinare queste piccole ipotesi. Allora, io sono d'accordo con te. Allora, intanto le dimensioni, il fenomeno ha una dimensione rispetto al totale del mercato del lavoro circoscritto. Dopodiché, se ci sono degli abusi e se qualcuno nel settore turismo, per esempio uno dei settori che usa di più questi voucher, si è messo a usare i voucher al posto di dare un contratto anche a termine a un lavoratore, è ovvio che questa cosa va limitata, oltre che sanzionata, e vanno messi i paletti, tant'è che si sta ragionando, vedo adesso una dichiarazione del ministro Poletti che ha detto sui voucher pensiamo sia necessario ancora intervenire per limitare e ridurre gli elementi di utilizzo improprio, e poco fa la Confindustria, per voce del vicepresidente che era delega al lavoro e alle relazioni industriali, Maurizio Stirpe, ha detto sui voucher cerchiamo di non buttare via il bambino con l'acqua sporca, di salvare il principio combattendo gli abusi. Si è capito che cosa vorrebbe fare il governo per limitare questi abusi? In realtà sì, esatto, è una pensione che ha di gran buon senso per il vicepresidente Stirpe, cioè il senso è questo, cioè lo strumento da ottobre questo strumento, in realtà il governo Renzi ha introdotto la tracciabilità per questo strumento, cioè ogni buono lavoro conquistato deve essere, l'utilizzatore deve comunicare per SMS, mail all'INPS che ha utilizzato questo, che ha acquistato e sta per utilizzare questo buono. L'idea qual è? Non ci sono ad oggi, non è noto il monitoraggio di questo di questa stretta, prima stretta varata dal governo Renzi in vigore dai primi di ottobre. Quindi il governo pensa intanto di dare i dati su questo primo monitoraggio, vedere quanto la tracciabilità abbia di fatto ridotto gli usi distorti, chiamiamoli usi impropri. Una volta fatto questo, qualche piccola correzione si ipotizza già al Ministero del Lavoro, cioè ridurre per esempio l'arco di tempo per la spendibilità di questi buoni. Oggi di fatto può succedere questo, che l'utilizzatore acquista un carnet di 500 buoni e poi li tiene in tasca, tipo biglietti dell'autobus, e li utilizza quando arrivano gli ispettori ministeriali. Chiaro che questo questo arco di tempo in cui li può utilizzare e poi convertire questi buoni oggi è fissato in un anno. Probabilmente si pensa di ridurre questo perimetro. Ancora in discussione è la possibilità appunto di ridurre il tetto massimo, dei 7.000 euro. 7.000 euro. Ricordiamo che prima il Jobs Act era 5.000. Allora. Non è che sono, rispondo ad alcuni ascoltatori, attenzione, è chiaro che se ci sono stati degli abusi e il tasso di crescita dei voucher lascia pensare, insomma, con ampio margine di certezza che vi sia chi ne ha abusato, si correggono gli abusi. Riportare a 5.000 euro il tetto massimo di utilizzo, ridurre il tempo sicuramente, perché quello che ricordava Claudio Tucci è ahimè successo, e cioè che e questi voucher vengono tenuti nel cassetto, poi quando arrivano gli ispettori del lavoro dice no, ma avevo questi voucher e tu in realtà lo stavi sfruttando. Però dobbiamo, diciamo, fare pace con il cervello, a mio avviso, sul tema più in generale. Se da sempre diciamo, e lo dicono anche i sindacati, lo dice anche la CGIL, che è una priorità in questo paese combattere il lavoro nero, su alcune tipologie di lavori occasionali, come si fa a immaginare un contratto, diciamo, vero e proprio? O perché tanto lo spingi nel nero, mi stanno scrivendo alcuni ascoltatori, ma insomma la signora che viene a fare i lavori del condominio una volta a settimana, torneremo a pagarla in nero mentre prima le davamo i voucher? Allora, è di questo che nella loro versione sana si devono occupare i voucher, di rapporti di lavoro occasionali, che prima non è che non ci fossero, non li hanno creati i voucher, venivano pagati nella stragrande maggioranza dei casi in nero. Ecco perché si sono applicati prima all'agricoltura, che era un altro settore in cui questo avveniva, e avveniva anche tanto, al turismo, ai servizi delle collaboratrici domestiche piuttosto che servizi occasionali, appunto, di pulizia. Questo è l'utilizzo sano dei voucher, a meno che uno dica no, nemmeno in quel caso lì, perché vogliamo il contratto. Va bene, vuoi il contratto, io vi do la certezza che rispedisci quei lavori nella parte del sommerso, nel nero. Poi uno mi dice, ma allora è un ricatto? Non è un ricatto, è una presa d'atto. C'è, cioè, questo strumento di voucher è intervenuto perché in questo paese, se qualcuno l'ha dimenticato, c'era una leggerissima massa di lavoro nero, che tuttora c'è, che non si riusciva a regolamentare. Cioè, non stiamo parlando della Svezia e dove abbiamo introdotto uno strumento abnorme, parliamo dell'Italia, in alcune aree del paese soprattutto, e in alcuni settori, ho citato agricoltura e turismo su tutti, e collaboratrici domestiche, la dimensione del lavoro nero era enorme. Allora, di questo dobbiamo parlare. Poi, a uno non piacciono i voucher, va benissimo, non li usi mai, tant'è che la CGIL, così rispondo ad altri ascoltatori, li ha usati correttamente, perché li ha usati per pensionati, per chi è già in pensione, magari gli viene chiesto di svolgere un'attività di consulenza, di prestazione d'opera occasionale, perché si è già in pensione. Cosa lo facciamo? Lo paghiamo in nero? Il contratto non glielo fanno? O gli diamo dei voucher? Mi sembra il punto molto chiaro. L'ultima cosa, Tucci, se però il governo interverrà, decade molto probabilmente anche il quesito referendario? In realtà sì, non è proprio automatico, cioè l'intervento poi l'eventuale intervento normativo deve poi passare al vaglio della Corte di Cassazione. La Cassazione infatti deve dire se l'intervento fatto dal governo, cioè, manda in soffitta il quesito referendario, cioè se tocca proprio l'oggetto del quesito referendario. Quindi insomma, cioè, sarebbe ancora il filtro, un filtro successivo. In ogni caso è evidente che un intervento del governo, insomma, considerando che il quesito cancella completamente tutta questa normativa, qualsiasi intervento di modifica, insomma, è buon senso ritenere appunto che sia appunto che superi il quesito referendario. Mi permetto di aggiungere solo una cosa: per esempio, in altri paesi, noi citiamo sempre spesso, come sempre in altri paesi, in Germania esistono da tanti anni i mini job, in realtà per i piccoli lavori, in realtà svolgono la stessa analoga funzione dei voucher, sì. E non c'è tutta questa, non c'è, no, non, ma l'abuso va punito, il tema, l'abuso va punito. Detto questo, ripeto, non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, l'abbiamo detto anche ieri, come faccio a giustificare i buoni lavori in edilizia? Io non giustifico l'abuso dei voucher, ok? Se poi uno contesta l'esistenza del voucher stesso, perché dice che qualunque tipo di rapporto lavorativo deve avere un contratto dietro, boh, secondo me, a me sembra la posizione ideologica che non guarda quello che succede. E non ho dubbi che se dovessimo eliminare i voucher, in assenza di uno strumento alternativo, torneremo a portare nel nero i lavori che magari sono emessi con questo. Il che non vuol dire giustificare, lo dico per la quarta volta, chi ne ha abusato, chi fa il furbo, chi traveste da voucher rapporti di lavoro che non sono occasionali ma sono, sono continuativi, nessuna pietà, nessuna comprensione per loro. Però possiamo non essere in questo paese sempre manichei e ideologici? Ecco, cerchiamo di ricordarci che questa è la situazione. Grazie anche a Claudio Tucci del Sole 24 Ore, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.